Il mio messaggio della mattina vi pone una domanda a voi che state già ascoltando qui su Runtime Radio: ma quanto costa la benzina? Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non ce n'è niente! Pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! Ma quanto sono belli gli assets che creiamo qui nella nostra fucina creativa di Runtime Radio, ragazzi. Buongiorno a tutti, benvenuti a Buongiorno un cazzo, qui su runtimeradio.it, la web radio geek, la web radio sempre più live, sempre più radio, e un po' di radio anche un pochino. No, stavo leggendo mentre prima di iniziare la trasmissione scorrevo alcuni gruppi, così anche per annullare le notifiche su Telegram, perché quando mi sveglio la mattina vedo tutte quelle lucine e niente, purtroppo c'è un fattore proprio psico che mi impone assolutamente di spegnere tutte quante le lucine. E insomma, leggevo questa cosa della benzina, che c'era già uno degli amici, insomma, che stanno nei vari gruppi, che stamattina era già in giro per questioni di lavoro, giustamente c'è chi si sveglia, che ha detto: oh, ma lo sapete che la benzina... E Michele infatti in chat mi dice che sta a 2,20 e Walter dice troppo. Eh no, perché alla fine questa era un po' la situazione che si veniva a creare in ogni racconto di fantascienza basato sui conflitti globali, no? Perché chiaramente uno dei motivi per cui si fa una guerra, indipendentemente dai discorsi strettamente ideologici, che spesso sono una maschera, è l'utilizzo e il gioco forza sulle risorse, perché le risorse del pianeta sono limitate e quindi ovviamente chi ha il coltello dalla parte del manico in qualche maniera pensa di poter fare un certo tipo di azione. Ma di questo poi ne parleremo, perché ci sono diverse cose, diversi aspetti che vorrei vorrei trattare in questo episodio. Ma prima di fare questo, tra l'altro stamattina c'ho anche un po' di tosse e quindi vedremo, insomma, che cosa succede. Però iniziamo con un po' di musica, iniziamo con i Black Sabbath. Beh, purtroppo semplicemente per farvi capire di chi stiamo parlando, anche proprio musicalmente, giustamente stiamo parlando dei Black Sabbath, con War Pigs, ma purtroppo la canzone, come sapete, dura tipo 7 minuti e mezzo, e quindi è inevitabile, insomma, che io, insomma, rientri a gamba tesa all'interno di questo bellissimo brano, molto articolato, molto bello, mi piace tantissimo veramente, e cerco, insomma, di andare avanti, anzi devo fare una cosa tipo così e così e poi così, ed eccoci qua, torniamo, li ammazziamo proprio i Black Sabbath, poverini, perché purtroppo, e niente, bisogna andare avanti e cercare di fare questo discorso che sto facendo in tempo reale insieme a voi, dicendo che faccio questo, questo e poi quest'altro. Comunque, e ieri si è concluso una bella iniziativa del gruppo dei Beceri Videoludici di Umberto, che ha fatto praticamente una sorta di riffa per mettere in premio un Sega Mega Drive, mi pare, originale, con due joypad e un gioco originale. Questa riffa praticamente è stata fatta per diciamo raccogliere denaro e mandarlo a Amnesty, a Save the Children, scusate, stavo dicendo una boiata, per mandare denaro a Save the Children nella campagna di sostegno e supporto per la popolazione dell'Ucraina. Questa iniziativa io non so come è andata, devo dire la verità, poi chiederemo a Umberto e vi daremo lumi. Noi abbiamo partecipato, ma credo che abbia partecipato molta gente, e il dubbio c'era: perché raccogliere tu soldi quando in realtà quei soldi avresti potuto mandarli direttamente a Amnesty International, a Save the Children, scusate. Beh, semplicemente perché magari qualcuno non ci pensa, o magari ha la pigrizia, e mettere in palio magari una retro console può essere da stimolo anche per coloro che si frega, ma fino a un certo punto. Quindi trovo l'iniziativa intelligente, interessante, e sono contento, insomma, di aver partecipato, e ieri si è conclusa con l'estrazione del vincitore, che non è nessuno di noi, quindi state tranquilli, non vi troverete un ennesimo pezzo di plastica dentro casa, però siamo stati contenti di aver partecipato. Però perché vi sto dicendo questo, oltre al fatto che chiaramente non trasmetteremo più lo spot che avete sentito praticamente 24 ore su 24 su Rantime Radio, ma anche per dire che all'interno della comunicazione di questo evento su Facebook non è mancato quell'elemento che proprio ti fa dire proprio buongiorno un cazzo, buonasera un cazzo, buon pomeriggio un cazzo, buonanotte un cazzo un cazzo. Perché è imbarazzante, giustamente, questo post di presentazione dell'iniziativa, che forse era un po' ampio, diciamo, io l'avrei condensato un po' di più, sotto a questo, giustamente, perché qui oramai si tratta di giustizia etica e sociale, perché insomma stiamo a questi livelli qua, interviene un certo Andrea, di cui non dirò il cognome perché vabbè, cerchiamo di mantenere un minimo di privacy. Lo avessi fatto per le famiglie italiane che sono a casa senza stipendio da mesi, avrei preso sicuramente almeno 50 biglietti, 30 biglietti. Allora, qual è il problema della frase del genere? Prima di tutto l'ipocrisia, che tu avresti preso 30 biglietti, cioè se tu hai la possibilità di prendere 5 per 30 quanto fa? Quindi insomma hai preso praticamente un sacco di soldi di biglietti di riffa, vuol dire che insomma te la passi bene, se te la passi bene fai solidarietà, non fa lo stronzo, no? Però guarda, avrei preso 30 biglietti, sì sì certo, come no, questo mi viene da dire. E poi giustamente il fatto che sti cazzi della guerra in Ucraina, noi che ce ne frega se i bambini muoiono dentro gli ospedali o mentre che scappano magari dai carri armati o dalle bombe che vedono cadere tutte le notti e che riempiono ovviamente magari la loro mente di terrore, no? Giustamente, che qualora sopravviveranno ovviamente continueranno a vedere per tutto il resto della loro vita, no? Perché sono cose che sicuramente difficilmente ricorderai. Tutti i nostri nonni, se voi avete avuto ancora, se avete ancora l'opportunità di parlare con loro, e tutti quei nonni che hanno comunque contribuito o partecipato a una guerra, volenti o nolenti, vi racconteranno o eviteranno di raccontarvi a seconda del tipo di trauma, ma lo faranno sempre con il terrore, giustamente. come vi ricorderete quel video proprio in Russia, a Mosca, del tizio col cartello "se siete contro la guerra abbracciatemi", e c'era il signor anziano che si è avvicinato e gli ha detto io l'ho vissuta la guerra ed è una cosa terribile, cioè nel senso, comunque proprio vedendo negli occhi di questi anziani che a 60 anni di distanza da quel trauma ancora vivono magari in quel modo così vivo quel tipo di esperienza, ed è questa la cosa veramente sconvolgente. Io non riesco proprio a rendermi conto come sia possibile esprimere una considerazione del genere, che è talmente bieca, bassa, verminolenta, oserei dire, che non meriterebbe neanche l'attenzione, neanche di essere citata. Però lo voglio ricordare che tra di noi, insieme a noi, nei nostri vicini di casa, tra le persone che incontriamo al lavoro, le persone che incontriamo al supermercato, ci sono delle persone di merda che pensano in questo modo e pensano che il loro vicino di casa è quello che dovrebbe essere più sostenuto rispetto ai vicini di casa di qualcun altro, non rendendosi conto che in un mondo globalizzato, in un mondo completamente unificato, il problema non è il vicino di casa tuo, ma il vicino di casa può essere quello che sta a Kathmandu o quello che sta a Beirut o quello che sta a Sydney. E quindi alla fine questo concetto è talmente brutalmente insignificante che anche avere il coraggio di scriverlo, perché io non è che questo, come dicevo, non è che quando ero ragazzo io, quando ero giovane o quando ero ragazzino, queste cose le persone non le pensavano magari, perché c'era pure chi le pensava, ma si vergognavano giustamente di esporre un'idea del genere. Oggi, fortunatamente, da quello che mi capita, a me che io oramai non frequento praticamente Facebook, quindi non lo so, però in generale da quello che mi capita, anche di meno nelle situazioni, come posso dire, più generiche, no? Però insomma ancora succedono queste cose e io a volte mi domando, non in una discussione specifica, in un gruppo specifico dove ognuno si rimpallano addosso queste idee bellissime, no? Ma oramai vanno proprio anche nelle cose generiche dove non c'entra assolutamente un cazzo, perché non ci può entrare un cazzo, non c'entra niente. Tant'è che tutti gli hanno risposto dicendo: ma vabbè, ma a parte che questa è una cosa specifica, no? È stata progettata per una cosa specifica. Non con questo che non significa che uno non pensa al fatto che ci sono delle famiglie che stanno a casa senza stipendio, famiglie italiane. Poi qualcuno giustamente, anche nella maniera un po' troppo sofisticata, gli fa notare che giustamente non è bello questa tua sottile intesa di differenza tra l'italiano e magari il ragazzo ucraino che scappa dalla guerra. E io, lo sapete, insomma, che alla fine me lo sono messo detto. Secondo me sono stato zitto troppo a lungo ultimamente, cioè nel senso, il mio silenzio dai social, non che contino qualcosa, giustamente, però penso che questo silenzio qualche volta ogni tanto vada rotto. E mi aspettavo di ricevere poi una risposta, una controrisposta, sai, sapete com'è, ma secondo me un po' si deve essere vergognato con questa persona ad aver scritto sta cosa, perché in qualche maniera, boh, cioè nel senso, mi sarei aspettato una controreazione, perché la mia risposta è stata: stai tranquillo, la prossima riffa la faremo per operarti al cervello, anche se viste le premesse mi sembra già abbastanza inutile. E quindi scusa, non te volevo offendere. Vabbè, so che i brani strumentali sono poco radiofonici, ma come dico, vado a pescare il mucchio, quindi se dovessi sapere tutte 20.000 le canzoni che sono all'interno del, insomma, il mio lavoro sarebbe il direttore artistico di una radio, ma non è così. Comunque questi sono i 91 Nova e la canzone, il brano non specifico, si chiama Juggernaut. E vabbè, tutto sommato ha creato un po' un'atmosfera. Comunque salutiamo anche Vincent, salutiamo anche Leo che ci ha raggiunto e giustamente dice ci sei andato leggero. Ti dico la verità che rispetto al passato sono stato anche molto educato, perché ed è per questo che io non scrivo più nei social, perché purtroppo c'è un momento in cui l'età ti dice guarda che è ora che insomma ti comporti diversamente, incominci a cercare di stare attento a come parli. Anche mia moglie mi dice, soprattutto quando interagisco con il mondo circostante, dice sappi che siamo dei professionisti, abbiamo comunque un lavoro con dei clienti e insomma se tu sbagli a zero poi giustamente magari questa cosa si ripercuote anche su quello che fai. Sì, vero, sono d'accordo. Ed è per questo insomma che poi alla fine quando arrivi a 50 anni dici vabbè un po' di moderazione, no? Però poi a volte quando vedi queste situazioni qua, che poi alla fine non è che ha fatto, che ne so, quelle cose con i K, chi ti paga, vergogna, devono morire tutti, viva l'Italia. Cioè ha espresso un pensiero stupido, però tutto sommato alla fine è stato anche civile, no? Dal suo modo di vedere. Poi io sono d'accordo con Walter che questi sono vigliacchi che si ritirano subito e che sicuramente, ma quando tu mi dici io avrei preso 30 biglietti, io lo so già che tu non avresti messo una lira, e anzi se fosse stato per gli italiani avresti trovato il modo per dire qualcos'altro, perché è chiaro, no? E questo è un po' quello che dico sempre sulle controreazioni, il pensiero di controreazione deve essere un pensiero ragionato, non deve essere de pancia, cioè deve essere il risultato di un processo, di un ragionamento che fate dentro di voi, aiutandovi con la lettura, con lo studio, cercando di comparare le cose. E non si può avere sempre una reazione così istintiva, perché se no siamo pari agli imbecilli, giustamente. E non voglio offendere nessuno, tanto non se ne accorgeranno, però ho visto un commento, c'è stato un commento anche in un gruppo videoludico, sempre un po' più o meno relativo a questo tipo di argomento, alla notizia che Sony ha bloccato qualsiasi tipo di attività basata sull'intrattenimento sul territorio russo. Quindi parliamo del PSN e via dicendo, probabilmente anche la distribuzione delle console. E questa è una questione che sta succedendo a livello globale. I McDonald's hanno chiuso tutti, alcolici, tante altre marche stanno praticamente chiudendo tutte le forniture alla Russia, ed è il risultato di tutta questa cosa è che la Russia stessa si è isolata e si sta isolando dal mondo per una scelta ideale, ideologica, che a questo punto comincia a diventare quasi incomprensibile, perché portare il tuo paese a 50 anni nel passato per motivi che ancora non sono ben chiari, insomma ci fa un po' strano, no? Comunque un ragazzo giustamente dice ragazzi, ma sono solo io a vedere inutile questo atteggiamento da parte di Sony o di levare i servizi ai territori ucraini, così ci rimette solo la povera gente. Allora, questo è un discorso che se lo vediamo nel generale, allora vale per tutto, cioè nel senso, purtroppo l'unica azione non bellica in questo momento è relativa a fare un atto di aggressione legata appunto a un tentativo di isolamento commerciale ed economico, che è dove vai? Scusate, un secondo. Ok, scusate, ma niente, ci sono delle questioni tecniche organizzative. Dicevo appunto che l'unica azione non aggressiva è quella appunto di isolare un territorio, di isolare appunto l'aggressore di un altro paese, e isolarlo non soltanto dal punto di vista dei confini, quindi dal punto di vista geografico, geopolitico, ma anche economico e commerciale, perché creare una stretta del genere diciamo è l'unica azione non militare che tu puoi fare e che può mettere in ginocchio una nazione e far riconsiderare le sue posizioni o comunque le sue azioni, o metterlo alle strette talmente tanto da dover rinunciare a quelle che sono le sue azioni. Poi chiaramente la Russia è una realtà gigantesca, assolutamente fuori dalla nostra immaginazione, con delle risorse e la capacità di accumulo anche di risorse spaventosa, e che probabilmente era pronta già da non si sa quanto tempo a questo tipo di azione, che ovviamente si sarebbero aspettati. Però è appunto questo, cioè tu non puoi dire ma lo vedo solo io, una cosa inutile che colpisce, cioè non pensate alla prima cosa che vi viene in mente, cioè ragionateci, perché allora lo stesso discorso lo possiamo fare verso i ragazzi ucraini. Non pensate che tirare le bombe contro l'Ucraina, i bambini scusate, verso le persone in generale, tirare delle bombe ucraine, poi però purtroppo ce li mette la povera gente, cioè il discorso è lo stesso, ragazzi. Questo è un paese che sta aggredendo un altro paese. Poi dopo parliamo anche della guerra in sé, perché mi è stata fatta una domanda che mi ha fatto anche un po' incazzare, devo dire la verità, però ci sta in questo momento, in questo contesto ci sta, e quindi dopo risponderò, subito dopo il brano. Però cioè questo discorso, cioè alla fine vale in generale, cioè ci sarà sempre qualcuno che non è d'accordo, che ci rimetterà all'interno di questa storia, ma purtroppo se tu fai un'azione io devo costruire una reazione, anzi probabilmente la gente all'interno del tuo territorio, magari anche d'accordo con le tue politiche, vedendo che tutto il mondo è contro di te, probabilmente a un certo punto ci ripensa anche. Qualcuno ci rimetterà sempre, ragazzi. Negli scontri, nei conflitti, c'è sempre qualcuno che ci rimette. E chi ci rimette è sempre la povera gente. Ma certo, io penso che un ragazzo ucraino, molto probabilmente in questo momento in fuga, facendo lo slalom tra le bombe che cascano a casaccio perché ha voglia di le guerre intelligenti, forse probabilmente voi baratterebbe volentieri l'abbonamento al PSN con la fine di sto strazio. Ecco, io ho questa sensazione qua, spero che ce l'hai anche tu, caro amico del gruppo dei videogiochi, perché veramente ragazzi, così, questo pensiero non andiamo veramente da nessuna parte. AGST, quindi AGST con Emotion, e anche questo è un altro brano che è strumentale, è uno di quelli che trovate su YouTube. Però vabbè, dai ragazzi, ci stava, anzi comunque a me mi aiuta a spezzare un po' nella conversazione, soprattutto nelle mattine in cui si fa un po' più fatica, e però vabbè, va bene così. Tra l'altro, no, leggevo il fatto che Leo diceva che si vogliono staccare anche dall'internet globale, parlando chiaramente sempre della Russia, e giustamente Walter gli risponde sì, perché la propaganda interna ha bisogno di fare un revisionismo e di non far conoscere il vero sullo stato delle cose al popolo. Sono tecnicamente in grado di isolarsi, vabbè, ma allora sì, lo sapevo anch'io questa cosa e probabilmente succederà, anche se questo alla fine io penso che è vero che questi sono stati 80 anni sotto un regime che, diciamo, questa situazione qua lo sta replicando in maniera abbastanza accurata, vista anche il tipo di propaganda, diciamo, su tutti i cartelloni e i poster giganti che stanno mettendo sui confini tra le aree russe controllate dai russi e l'Ucraina, e in generale la propaganda televisiva che stanno facendo. Chiaramente questo accartocciamento in se stessi non può che aumentare, proprio perché ovviamente la negazione della realtà oggi non è controllabile dal punto di vista dell'informazione. Noi chiaramente siamo qui e non abbiamo tante informazioni, ma io immagino che nel sottobosco telematico russo le informazioni girino anche abbondantemente, ed è una necessità fisiologica nell'era moderna quella di chiudere ovviamente l'unica cosa che i regimi antichi non ci avevano, ossia l'incontrollabilità della rete, e anche facendo questa cosa che loro faranno non è detto che riusciranno a tenere sotto controllo tutto, chiaramente. Però io non so come si digita un indirizzo nell'internet russo, cioè nel senso che tipo di URL hanno, cose del genere. Però diciamo che quando cominci a non poter andare più sul sito dell'Apple, della Sony, della Samsung o delle cose che ti interessano, voi dovete considerare una cosa importante, che questo molti non lo dicono, che la Russia, soprattutto negli ultimi 10 anni, è un mercato emergente dal punto di vista dello sviluppo tecnologico, non soltanto per quanto riguarda l'hardware, ma per quanto riguarda lo sviluppo dei videogame. Cioè, ci sono delle case di produzione AAA in Russia, AAA ragazzi, non stiamo parlando dell'indipendente, senza considerare il mondo di indipendenti, di indie di qualità nel mondo del videogioco, nei videomaker, ovviamente gente che comunque acquisiva risorse e faceva lavori di qualità da quel punto di vista. Tutto questo mercato, che era in completa cooperazione col resto del mondo per ragioni ovvie e oggettive, perché nel mondo della globalizzazione, come ho detto, i confini sono estremamente relativi, è tutto un mondo che sparirà lentamente. E ha voglia dire Putin che prende e acquisisce tutte le aziende in difficoltà e le nazionalizza, ma un mercato chiuso è un mercato chiuso e basta. Cioè, questo può portare un supporto all'inizio, ma non può ovviamente continuare se non creando un'involuzione. Comunque, indipendentemente da questo, quello che volevo dire è un'altra cosa, perché è successo qualche giorno fa, insomma all'inizio di questa invasione della Russia in Ucraina, è successo un evento qui nelle varie chat di Runtime che non vado a ripercorrere, però mi fa sempre un po' faccio sempre un po' attenzione a questa cosa, perché pare che poi la gente non partecipi, pare che la gente magari non legga o non ascolti, poi in realtà la gente partecipa, ascolta e legge anche silenziosamente, quindi diciamo c'è comunque la piccola fetta di persone che comunque buttano un occhio, insomma, e buttano anche un orecchio. E qualcuno, facendo notare che c'è stata una situazione particolare, una polemica e via dicendo, mi ha chiesto di voler capire proprio per farsi un'idea se continuare a supportare o no Runtime Radio, qual è la posizione di Runtime Radio nei confronti della Russia che ha invaso l'Ucraina. Ecco, questa, il fatto che qualcuno ce lo venga a chiedere è una cosa grave, perché questo significa che non avete capito, e veramente non avete capito, e qui mi ci metto io in primo piano, non vi ho fatto capire, non vi ho messo nelle condizioni di capire, non vi ho spiegato bene, non sono stato chiaro su questo aspetto di quello che è Runtime Radio. Perché Runtime Radio, se nel suo nucleo centrale ha una posizione anche ideale, Runtime Radio è la casa di tutti. Runtime Radio non ha una posizione universale se non per degli elementi fondamentali, che possono essere i diritti umani, il razzismo, tutte quelle cose che universalmente sono un abominio. Per il resto, chiaramente, Runtime Radio, che non è un'entità ma è un collettivo di persone con i propri pensieri, con la propria testa, con il proprio modo di pensare, Runtime Radio alla fine riesce a permettere a tutti di esprimere le proprie idee, anche le idee con le quali alcuni di noi non sono d'accordo. L'unica cosa che cerchiamo di filtrare, e questo tutti quelli che stanno in Runtime Radio lo possono dire, chi non lo dice non è onesto intellettualmente, mi dispiace dirlo, ma tutte le persone, ma l'unico filtro che noi mettiamo è ovviamente nel modo in cui vengono esposte le cose. Cioè, se tu mi parli di ragazzini squartati, io ti dico forse non è il caso, neanche ti dico oh, ti blocco o ti cancello. Quindi se mi chiedete a me qual è la posizione di Runtime Radio, ovviamente Runtime Radio sarà sempre contro un aggressore prepotente e più forte nei confronti di un'entità più debole e sicuramente vittima della situazione. Ma tutto quello che è all'interno di questo meccanismo, le sfumature culturali, ideologiche, ideali, politiche, geopolitiche, sono ad appannaggio di ogni singolo speaker che ha le sue idee e che le esprime nel contesto e nel modo in cui ritiene opportuno. Quindi ve lo ripeto per l'ultima volta, perché questa è una cosa che veramente mi fa rodere, perché vuol dire che abbiamo fallito da questo punto di vista. Nella nostra piccola realtà, nel nostro piccolo essere quello che siamo, se voi mi fate una domanda del genere, noi abbiamo fallito. Il grande progetto, la grande idea di Runtime Radio non è arrivata, non ha vinto, non ha funzionato da sto punto di vista. Quindi, se mi chiedete ancora una volta qual è la posizione di Runtime Radio sul cazzo imperio bubù, Runtime Radio è morta. Vabbè, stamattina non ne ho azzeccata una, ragazzi. È vero che mi sono svegliato tardi, bisogna anche di questo, quindi non ci ho avuto il tempo di preparare il materiale relativo. Scusate se ne sono accalorato, però voi capite che dopo tanti anni di costruzione, in qualche maniera, secondo me, nei limiti delle nostre potenzialità, nel nostro non cercare anche uno sviluppo pubblicitario, farsi conoscere per non entrare in determinati meccanismi, secondo me Runtime ha raggiunto quello che doveva raggiungere, è arrivata nel posto in cui doveva arrivare, si è concretizzata nel modo in cui ci piace che sia concretizzata, perché è stare all'interno di questa realtà, non soltanto da parte di noi che l'abbiamo fondata, ma anche degli amici e degli speaker che sono entrati piano piano, che comunque la sostengono direttamente, secondo me è l'aver raggiunto un qualcosa. Noi con Runtime abbiamo fatto un percorso bello, lo dicevamo proprio ieri con Francesco, che saluto, che ci ha raggiunto in chat, il fatto che a Runtime in questo momento sono legati forse i momenti, i ricordi più belli ai quali siamo più affezionati rispetto agli ultimi anni, che sono anni che è inutile ci stiamo raccontando da tanto tempo, no? È inutile sta a continuare a dirlo, no? E Francesco ci dice che una persona possa chiedere della posizione di Runtime rispetto a XYZ non è un fallimento, è normale e fisiologico. Se queste persone iniziano ad essere tante, allora sì, c'è un problema. Sì, sì, ma io sono abituato a spegnere incendi dall'inizio, cioè proprio come vedo la fiammella, proprio perché è vero che probabilmente questa cosa non è così dimensionata, però se qualcuno possa pensare che all'interno del Runtime Radio noi sosteniamo la Russia, per fare un esempio, non hai capito un cazzo, ma lì non so più io che non t'ho spiegato bene, lì sei tu che non hai capito un cazzo. E questo ci tengo, spero che anche tutti gli altri amici del Runtime sostengano questa cosa, insomma, facciano capire quanto prima possibile, insomma, tutte le persone che si pongono una domanda del genere, che c'è un problema di comprensione su sta cosa, insomma, perché Runtime non è un partito politico, non ha una linea editoriale, ha costruito lo spazio dove Francesco Marcheretti viene da me e mi dice: voglio fare una trasmissione sui cacciaviti, ti può interessare? Beh, fammi sentire se c'è qualità tecnica, che forse è l'elemento interessante. Poi magari dei cacciaviti non me ne frega un cazzo, però magari comunque è sempre una trasmissione live che può interessare a qualcuno, la analizziamo, vediamo, insomma, facciamo, ecco, questo è il vostro spazio, a maggior ragione adesso che l'abbiamo costruita, no? come server, no? Quindi c'è anche una posizione pure tecnica, no? Dove vi possiamo mettere a disposizione lo spazio, il tempo, volete collaborare, volete entrare a Runtime Radio, non la pensate come noi magari su certe cose, non fa niente, l'importante è che mantenete la decenza ideale rispetto a quella che è il rispetto per l'umanità in generale, no? Quindi non mi venite a dire: ah, voglio fare una trasmissione razzista, perché te manda a fanculo, chiaramente, no? Ma è normale, insomma, cioè, voglio dire, l'avete capito questo, no? E invece voglio fare un pensiero accorato, veramente io mi rendo conto che magari ne ho sempre parlato con disprezzo perché è un po' quello che si merita, secondo me, no? Relativamente a Matteo Salvini, lo so che ne avete già parlato in OGM, ne parlerete nelle orazioni della sera, però siccome che io ritengo concluso questo episodio, forse perché mi sono accalorato e quindi preferisco recuperare un po' di energie da questo punto di vista, ecco, però questa volta invece di parlarne con disprezzo lo faccio con il cuore in mano. So che non mi ascolterai mai, so che nessuno ti riporterà mai queste parole, però Matteo, fa finta che io te voglio bene, fai finta che io te considero comunque una persona che sbaglia. Segui quelle persone maldestre che purtroppo è più forte di loro, commetteranno sempre degli errori, sbaglieranno, faranno sempre le cose fuori luogo, però tu gli vuoi bene lo stesso, perché e cerchi di aiutarli, no? Di dargli un supporto, di dargli una mano, cercare di essergli vicino comunque in qualche maniera e fargli capire che sbagliano. E quindi io in questo momento, Matteo Salvini, ti parlo col cuore in mano, proprio come una persona che tutto sommato prova tenerezza per te. Lo so, detto così può sembrare, cioè, ma Pina, tu mi ami, io ti stimo moltissimo, no? Un po' sì, però d'altronde pure Matteo, pure tu che pretendi, no? Nel senso, non è che poi pretende, insomma, più di tanto, no? Quindi te lo dico col cuore in mano. Questa, fatti, vai da uno bravo. Vai da uno bravo, perché questa tua esigenza non è più solo politica, quella di essere al centro dell'attenzione per ogni cosa e in ogni contesto. Non è più solo una questione politica, perché ti sta distruggendo questa cosa. Ti sta uccidendo politicamente. È una necessità proprio psicologica. Tu hai bisogno di fare questo. È più forte di te. E ti ha portato a fare delle figure di merda infinite in giro per tutto il mondo. Non ultima il momento in cui sei stato blastato da un sindaco che ti dice: che cazzo sei venuto a fare? E tu sei sparito dall'inquadratura a un certo punto. Perché sei pure un po' meschinetto quando fai queste cose. Non le affronti, non prendi la cosa e poi cerchi di trovare il modo magari di dire la tua. No, scappi, Matteo. Matteo, ti ho visto con i dopo sci subito dopo i fatti di Enrico Piano. Matteo, ti ho visto calpestare ogni momento moralmente importante della nostra storia. Ti ho visto camminare sopra gli spiriti e i corpi delle persone che sono morte, delle persone che soffrono. Ti ho visto calpestare qualsiasi cosa piuttosto di essere al centro dell'attenzione. Basta, Matteo, sei arrivato al limite. Fermati ora, perché dopo la vergogna che coprirà la tua storia ti sopravviverà. Perché oggi la gente dimentica dopo 3 minuti le cazzate che fai, ma un giorno sarai ricordato per la vergogna che ti porti dietro. E così saranno ricordati i tuoi figli e i loro figli, perché saranno i discendenti di una persona che non si è mai vergognata abbastanza di andare a fare lo sciacallo sulla sofferenza della gente. Salvini, fermate, accanna, lascia perdere, lascia la segreteria del partito, vattene, nasconditi. Perché mo, a detta di qualcuno, così ha sentito lì, ci hai rotto il cazzo. Salsiccia Dance, ragazzi. Questo tra l'altro quello di prima non l'ho disannunciato. Vabbè, sti cazzi. Comunque, questo è Ben Ellison con Look It Out. Questo bellissimo pezzo che ci porta, insomma, lentamente verso l'uscita, ragazzi. Che poi tutto sommato, in realtà pensavo peggio. Invece è andata abbastanza bene questa mattinata con Runtime Radio e Buongiorno un cazzo, perché queste sono quelle mattine meravigliose quando mi sveglio bene, che mi sono svegliato proprio bello, pieno di sentimenti positivi verso l'umanità, e quindi insomma ve li ho riversati per portare anche a voi il mio contributo e portarvi energie positive per questa giornata, ricordandovi che il mondo è comunque bello e la gente non è così stronza come può sembrare, ma certo che qualcuno cerca di far di tutto in maniera tale che lo sembri. Ma detto questo, vi ricordo che tra poco uscirà la nuova puntata degli Scimioni Non Leggono Nietzsche, che doveva uscire sabato e che per ragioni tecnico organiche organizzative insomma esce adesso. Tra l'altro una bella puntata, un po' sentita, chiaramente, che risente della situazione del momento, e che questa sera dalle 20 alle 20:45 c'è l'ultimo appuntamento settimanale con Le Orazioni della Sera di Walter Sbano, che insomma vediamo poi di che cosa ci parlerà, ce lo racconterà durante il resto della giornata, ovviamente quando farà la pubblicizzazione della cosa. Successivamente alle 21:30 torniamo con Quando Eravamo Futuro, finalmente questa puntata di Bud Spencer on Terence Hill, meravigliosa, insomma, che dovevamo fare però abbiamo dovuto rimandare per X cose, X motivi, e quindi la facciamo volentieri, insomma è una cosa alla quale siamo naturalmente molto affezionati. E domani mattina torna con l'ultimo appuntamento settimanale anche per lui, dalle 7 alle 8 di mattina, Leo Vargion con Il Mattino a Loro in podcast, e poi sabato dalle 8:30 alle 9:30 io e Michela con Disordinati Informati, con questa specie di crossover dove ci sono anche io, e poi tutto il resto della settimana ricomincerà da lunedì, ricordandovi che la domenica dalle 9:30 in poi trasmettiamo il meglio di Runtime sia in podcast che in live, quindi tutto quello che è uscito in Runtime Radio viene riproposto durante l'arco della giornata, e la sera alle ore 22 in streaming ovviamente ci sarà il nuovo episodio della Nuova Scuola Cinica degli amici di Test the Fear, che insomma con i quali collaboriamo, e che poi in settimana poi tra l'altro comincerò a discutere anche magari di altre cose, vediamo un po' quello che succede. Detto questo, io vi ricordo che questa è www.rantemradio.it, la radio geek sempre più live, sempre più radio. Se volete andare sul nostro sito che vi ho appena detto e cliccate su Anch'io e date un contributo al nostro progetto facendo una donazione una tantum su PayPal, oppure abbonandovi a fare donazioni ricorrenti su Patreon cliccando appunto sul pulsante Anch'io, ci sono tutte quante le istruzioni per poterlo fare. Da me Simone Pizzi è tutto, ciao e buona giornata.